Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera da Maurizio Melis, continuiamo questa sera con lo speciale Oltre il riciclo, dedicato alle tecnologie di upgrading, cioè quelle tecnologie che permettono di riciclare uno scarto ottenendo un prodotto idealmente migliore addirittura di quello da cui si è partiti, mentre quasi sempre il riciclo comporta una perdita di qualità. E non c'è dubbio che lo scarto più abbondante prodotto dall'uomo sia oggi la CO2. Una delle strade per utilizzare la CO2 evitando di disperderla in atmosfera chiama in causa una sostanza chiamata dimetilettere, che già oggi viene prodotta nell'ordine delle 150.000 tonnellate all'anno a partire quasi sempre da gas naturale. Ebbene, la notizia è che al Dipartimento di Ingegneria del Campus Biomedico di Roma hanno messo a punto un nuovo processo che permette di produrre dimetilettere consumando una certa quantità di CO2. Per parlarcene c'è in linea con noi il principale autore di questa ricerca pubblicata sul Chemical Engineering Journal, il professor Marcello De Falco, professore di impianti chimici dell'Università Campus Biomedico di Roma. Buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Allora, ecco, intanto perché ci interessa, perché è così utile questo dimetilettere? Beh, già oggi considerate che il dimetilettere è un reagente molto utilizzato nell'industria chimica, e serve a produrre una serie di prodotti, a sintetizzare una serie di prodotti quali solfati, metilacetato o le fine leggere. Ha un grosso utilizzo come propellente per aerosol. Ecco, per esempio, questo vuol dire che non ha un effetto serra significativo, altrimenti sarebbe vietato. Esattamente. E soprattutto, già oggi, più del 60% del dimetilettere prodotto a livello mondiale è utilizzato in miscela con il GPL per usi domestici e per autotrazione, in quanto il dimetilettere ha delle caratteristiche chimico-fisiche molto simili al GPL. E quindi, per esempio, quando lo si comprime in una bombola diventa liquido, quindi si riesce a trasportarlo tanto in una volta, come il GPL, appunto, no? Esattamente, ha le stesse caratteristiche di questo tipo, quindi è tipicamente trasportato in fase liquida. E può andare al posto del gasolio, se ho capito bene, nei motori diesel. Esatto, ci sono molti studi che lo stanno analizzando l'applicazione del dimetilettere come un additivo per il diesel sostanzialmente. Perché insomma brucia molto bene, no? Produce pochi NOx, produce poco monossido di carbonio, quindi lo si può bruciare in modo abbastanza pulito. Esattamente, è una combustione molto pulita, sì. E quindi tant'è che si ritiene che nei prossimi anni sarà proprio questo utilizzo o come sostitutivo del GPL o insieme in miscela con il diesel il principale utilizzo del dimetilettere a livello mondiale. Ecco, che è un po' un parente dell'alcol, per capirsi, alla lontana. Dunque, veniamo al vostro lavoro. Qual è la novità del processo che avete messo a punto? Sì, considerate che convenzionalmente il dimetilettere viene prodotto dal gas naturale. Questo gas naturale in un primo passaggio viene convertito in una miscela gassosa che è composta da monossido di carbonio e idrogeno prevalentemente e da piccole quantità di anidride carbonica. Ecco, questa miscela si chiama syngas e si può produrre da gas naturale ma anche da altre cose, no? Sì, si può produrre anche da carbone, per esempio, ma anche da biomassa. Perfetto, benissimo. Quindi da biomassa o gas naturale arriviamo ad avere questo syngas. Lì cosa succede? Allora, il syngas a questo punto viene convertito in metanolo e dimetilettere. Considerate che il syngas tipicamente contiene delle composizioni di CO2 sotto il 10%. Il problema qual è? Quando abbiamo troppa anidride carbonica in ingresso al reattore, il dimetilettere non si produce più. Quindi la nostra unità di ricerca ha cercato una soluzione per risolvere questo problema e quindi per permettere di produrre grandi quantità di dimetilettere anche con correnti che hanno molta CO2 in ingresso. Ecco, perché questo può succedere o perché ce la si trova la CO2, magari non la si voleva ma ce la si trova e quindi oppure perché desideriamo aggiungere sostanzialmente CO2 al processo proprio per farla sparire, per non immetterla in atmosfera. E quindi quali sono gli scenari in cui si può immaginare di utilizzare questa tecnologia? Allora, certamente lo scenario da cui potremmo partire è lo scenario convenzionale, quindi i processi oggi utilizzati in industria per produrre dimetilettere che partono da syngas povero in CO2. L'idea è aggiungere una corrente di CO2 e quindi utilizzare la CO2 come reagente di questo processo. CO2 che abbiamo in abbondanza, no? Viene fuori dalle combustioni e così via. Che non si vuole mettere in atmosfera, non si vuole neanche stoccare, ma la si vuole valorizzare e quindi trasformarla in un componente utile. Quindi applicando questo reattore in un processo tradizionale noi riusciamo a gestire grandi quantità di CO2 convertendole in un prodotto ad alto valore aggiunto. E questo è uno degli scenari che già non è male, uno dice. Ce n'è anche un secondo che forse è ancora più interessante dal punto di vista della sostenibilità. Certo, che è la produzione del dimetilatere a partire dalle biomasse, in quanto il gas di sintesi può essere prodotto anche da processi di termodistruzione delle biomasse stesse. Se non che, quando utilizziamo la biomassa come alimentazione, il gas di sintesi contiene grandi quantità di CO2 e quindi con i processi tradizionali non potrebbero essere gestite queste quantità. O bisognerebbe prima togliere la CO2, ma il processo a questo punto diventa troppo complicato e costoso, oppure ci si rinuncia, che è quello che succede effettivamente. È quello che succede attualmente, è chiaro. E invece, utilizzando questo reattore innovativo, è possibile gestire queste quantità di anidride carbonica producendo quantità importanti di dimetilatere a partire, ripeto, da biomassa. Va bene, allora grazie professor Marcello De Falco. E avanti così. Grazie a voi tutti. Ci fermiamo qui, appuntamento a domani. Buona serata. Scoprite le tecnologie e le personalità del futuro su audiinnovative.it. Vi ha presentato Smart City.